sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Quando ti avrebbero pestato, preso a calci in culo e ti avrebbero mandato via se magari non faresti audience, perché tu fai audience, non sai perché? Perché dici le cazzate e allora la gente va in bestia, no? E dici guarda questo che cazzo sta di con un network della Confindustria. Eccoci qui, caro Parenzo, ti annuncio, ma già lo sai in realtà, ti annuncio che cosa? Ti annuncio un'intervista pazzesca in due pezzi, in due tranche, all'uomo che accusa tutti. Ma l'ex... che cosa annunci che c'ero anch'io? No, beh, ti annuncio, annuncio Urbi e Torbi, una intervista pazzesca in due tranche, l'abbiamo chiamato due volte, a Giuliano Soria, sì, ma non fare rumori inutili là, Giuliano Soria, ex patron del premio Grinzane Cavour, che dice che Chiamparino ha preso i soldi in nero, che vari scrittori e artisti e attori hanno preso soldi in nero da lui mai dichiarati, dice di avere anche le prove. Anticipiamo tutto. Soria, che è stato condannato per 14 anni in primo grado, adesso c'è il processo di secondo grado per corruzione, non mi ricordo, un sacco di reati tra cui anche molestie sessuali, accusa tutti. Lei sarebbe pronto a rispondere alle querele, su questo ci siamo. Ma le pare che io faccia questa accusa se non ho gli estremi e le prove? Comprese quelle di Chiamparino, con testimoni. Io ho i testimoni dei soldi che ho dato, e quindi cosa vuole che dica Chiamparino, no? Augias che fa il moralista. le fa ridere questa cosa? Mi fa spanciare dal ridere. Dopo le 19 sentiremo tutto. 800 24 00 24, questa è la zanzara. E gira ancora l'idea incredibile, secondo me, di fare Prodi, Romano Prodi, certo, mediatore nella vicenda libica. Mediatore, certo, della vicenda libica, signor. Certo, certo. Ma certo, un cazzo. Basta, ci sono già troppi mediatori. Ma cosa non sei, ti ha fatto, non Prodi? A me non mi interessa di Prodi, potrebbe essere anche uno qualunque, non è Prodi, non è la questione di Prodi. Ma non capisco perché c'è questa acrimonia nei confronti di Prodi. No, ma non c'entra niente Prodi, potrebbe essere anche e un altro. Non conosce la politica estera, sì. Non serve, non serve, sì, un mediatore, non serve, no, a nulla, non serve. A niente. Ci non sono i ministri, ci sono i ministri, c'è il ministro degli esteri dell'Europa che non fa niente. Dai, ma su. Ma tu sai che anche Tony Blair non è più premier, ma ha un ruolo internazionale come mediatore nei conflitti. Allora, terrorismo. Crozza prende per il culo questa roba qui. Per la Libia abbiamo un'arma segreta. No, no. No, non gli F-35, uno del 35, Prodi, Romano Prodi. Si parla di lui come mediatore ONU. Manderanno Prodi a parlare con l'ISIS. Che merdacce che sono quelli del PD, cazzo. Hanno trovato il modo per farlo fuori. Calma, Califfo. Stiamo calmi. Parliamo. Adesso ci mettiamo comodi su questi tappeti. Ci sfondiamo di camomille e contiamo i cammelli. Un cammello. Persino Crozza lo piglia per il culo. Vabbè, quello è normale perché fa il comico. Allora, Salvini non è voluto andare da Mattarella. Non capisco la polemica. Salvini che non va da Mattarella, ma chi se ne frega andare da Mattarella, non andare da Mattarella? È una polemica assurda, ridicola. A un certo punto dice: che ci vado a fare? A chiedere il numero del parrucchiere? Intanto c'è Brunetta che va a colloquio con Mattarella. Non solo Brunetta. Anche Grillo. Anche Grillo. Ma io ci devo andare, secondo te? Ma non so, magari potremmo chiederlo anche a qualcuno dei nostri ascoltatori. Cosa però vado a chiedere a Mattarella? Ma no, secondo me... Allora, già hai, eri qua durante la giornata importante della presentazione, degli applausi, delle strette di mano. Oh. Posso chiedere il numero di telefono del parrucchiere? Vabbè, i 5 Stelle non vogliono l'attacco alla Libia, non vogliono che l'Italia partecipi all'attacco alla Libia. Dicono che sarà il nostro Vietnam, Di Battista. Ma Di Battista, quello pizzicato dal New York Times per avere detto una boiata sulla Nigeria occupata da Boko Haram, eccetera, eccetera. Una guerra in Libia sarebbe una catastrofe, sarebbe il nostro Vietnam. Se Gentiloni e Pinotti vogliono fare i Marines, si accomodino pure. Spenderemo i loro stipendi da casta per riparare qualche scuola, per bonificare qualche terreno nella terra dei fuochi o per pagare la benzina ai poliziotti, perché la vera guerra, quelli che molti mezzi di comunicazione e tutte le forze politiche vogliono farci dimenticare, ce l'abbiamo qui in casa e non in Libia. Grazie. Allora, la cosa incredibile, caro Parenzo, che è venuta fuori oggi ancora sulla vicenda del nomade ucciso, rapinatore ucciso dal benzinaio, che è stato pagato il funerale, cioè le spese funebri della rimozione del corpo sono state recapitate al comune. Al comune, cioè... Beh, è un errore della burocrazia. Però. Ma non è un errore della burocrazia, è che è vero che l'avvocato della famiglia del nomade dice adesso che ma è il comune che si è dovuto accollare le spese, credo 300 euro. Vabbè, ma il comune si farà rimborsare dalla famiglia. Ma sì, ma tu secondo te questi qua daranno indietro i soldi? Daranno indietro i soldi? Cioè, e questo è il paradosso. Cioè, anche le spese del funerale, ma le pompe funebri, le hanno affibbiate al comune di Vicenza, ce le abbiamo pagate noi. Sì, chiaro? È un problema della burocrazia questo. Ma che burocrazia, Viviana Beccalossi, buonasera. Che non si paghi il funerale di questo qua. Beh, speriamo. Cornuti e mazziati, cioè questi ci derubano, ci rapinano, noi cerchiamo di difenderci, dobbiamo pure. Già il benzinaio pagherà in tribunale, ci bisogna pagare, tanto quando anche dovessero pagare andrebbero evidentemente a rapinare qualcun altro per fare i soldi. Ma speriamo che questo non avvenga. Buonasera innanzitutto, lei è assessore Lombardia. Scusa, ma mi sono infilato subito in... No, ma va benissimo, per carità, lei è considerata una sorta di Le Pen italiana perché c'è una certa somiglianza anche fisica, anche se lei è un po' più carina, diciamo, della signora Le Pen, diciamo, perché qualche anno di meno. È un po' più bellina della signora Le Pen. Sì, le idee rimangono terribilmente le stesse, ma va bene. Vabbè, Parenzo, per te è terribile tutto quello. No, io la conosco. Ragione, Parenzo. La conosco da 10 anni, l'amica Beccalossi. Ma litigavate diverse. Ma litigavate anche prima, Davide? Sì. Cioè tu eri di tendenza sinistroide anche prima? No, sinistroide no, io ero a Tele Lombardia, lei veniva spesso ospite e noi battagliavamo. Beh, come sinistroide no? Ma perché uno deve negare di essere di sinistra? Simpaticamente, io non nego di essere di destra. Appunto, lo dico da subito. Perché, scusa Viviana, ma perché invece Parenzo nega di essere di sinistra secondo te? Spiegamelo, adesso ci diamo del tu. Perché prima era un po' da radica chic fare quelli di sinistra, adesso che sono tutti renziani, un po' di sinistra si fa il contrario, no? Si nega. Tu dunque non pagheresti naturalmente, ma quello pure io, questo funerale, ma i Rom tu come li consideri di fondo? Cioè, in gran parte sono ladri? Vabbè, diciamo che difficilmente li ho visti tra i riconoscimenti dall'Ambrogino d'Oro. Cioè difficilmente, cioè nel senso non sono grandi lavori. Non li ho neanche visti nel premio lavoro della Lombardia. Cioè non sono grandi lavori. Io dei Rom leggo sulla cronaca nera di tutte le province lombarde italiane come coloro che si caratterizzano, diciamo, per furti o cose simili. Poi se fanno anche volontariato, evidentemente lo fanno con molta molta discrezione. Diciamo, volontariato mi sembra molto difficile. ma secondo te hanno un po' questa roba del furto nel DNA? Diciamo che hanno nel DNA poca voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche per guadagnarsi il pane quotidiano con il sudore della fronte. C'è una cosa quasi genetica, tu dici, c'è una cosa di quel tipo di genetica, non m'azzardo assolutamente, DNA. Diciamo di tradizione, di abitudine. Di tradizione e di abitudine, naturalmente. E per cui tu dici, anche se ci sono dei lavori che potrebbero fare, non li fanno. No, io non dico questo, dico che quelli che lavorano onestamente lo fanno con molta discrezione. Vabbè, cioè non si vedono, tu dici. Cioè, tu non hai mai visto un rom, un nome così, fare un lavoro normale, cioè dietro un ufficio? Assolutamente no. Ma evidentemente sono stata sfortunata io. Cioè, tu dici nascondono bene tutto. Parenzo, che c'è? Perché no, questa diciamo, è la realtà, diciamo la verità, è un po' vabbè. Questa cosa qui è vera. Va bene, no? D'accordo, alcuni rom rubano, non c'è un po' di dubbio. Perché alcuni. L'assessore Beccalossi no, ma non è che in regione Lombardia gli scandali che hanno travolto la regione Lombardia, ma che c'entrano gli scandali della regione Lombardia? Ma che c'entrano gli scandali? Hanno rubato molto meno di quanto ruba un rom in un giorno. Ma adesso scusa, però non mi fare sì, non devo difendere no, non è che io posso rispondere per chi ha rubato, io non ho rubato di conseguenza. Dai, ma che vuol dire gli scandali della regione? Certo che gli scandali vanno, figuriamoci, lo facciamo sempre noi, chi ha rubato. Ma io poi gli dico che devono tagliare le mani, pensi un po', ho una visione quasi musulmana per i politici che rubano. Cioè i politici che rubano tagliare le mani quasi. Tipo il califfo, insomma. Beh, più o meno. Non mi dire, Viviana, qualche cosa si potrebbe anche mutuare la cultura islamica, che certamente è molto distante dalla mia. Lo sai, Parenzo, quello che mi fa incazzare nella vicenda di Giuliano Soria o Soria è uguale. Molti mi dicono che si dice Soria, dopo avremo un'intervista pazzesca a Soria che attacca tutti, all'Enel Can, Chiamparino, un altro politico del Partito Democratico dicendo che prende i soldi in nero, intervista pazzesca che ascolteremo dopo le 19. La cosa incredibile è che ovviamente ci sono delle accuse e gli altri si difendono dicendo non abbiamo mai preso soldi in nero. La cosa incredibile è molti di questi personaggi invece attaccavano, che adesso dicono no, per carità, siamo stati messi nel tritacarne, quando si è trattato dei loro nemici politici, e parlo di Augias ma parlo anche di altro, non hanno esitato un secondo ad attaccare quando leggevano cose sul giornale, cose che magari non erano provate, e adesso dovremmo andare noi in soccorso di queste persone dicendo no, siamo ma le storie sono un po' io diverse, non vado in soccorso però. Di nessuno, Soria o Soria ma dice io in soccorso di nessuno, ma le e allora sono mi un po' scandalizzano le stesse persone tipo Augias che danno che attaccano sprombattuto da una vita Berlusconi e così. Dicendo che sono dei ladri, dei frodatori, eccetera. Esattamente. E adesso, quando poi qualcuno dice che tu hai preso soldi in nero, noi dovremmo stare lì a difendere il principio di innocenza. Certo. No, non però c'è il principio di innocenza. Cioè, sono storie completamente diverse. Ma certo che sono storie diverse. Qui siamo di fronte a una persona che è stata condannata a 14 anni. E ma che c'entra? Grado, che non può dire solo cose false una persona condannata a 14 anni. E che tira in ballo. E dice di avere le prove. E dice di avere le prove. Sostenendo cose che non si possono dimostrare. Vedremo. Questa è una tua idea. Vedremo. Voglio, no, la mia è quello che succede. Vabbè, comunque, intanto. Ma la fatina bionda di destra c'è ancora. Ma certo che c'è, no, adesso fatina bionda, come non la trattare bene con la fatina assolutamente no. No, ma fatina, questa è terribile, Diana Beccalossi è il terrore nelle trasmissioni. Terrore neanche, ma fatina proprio no. Allora, Diana Beccalossi che magica è di Fratelli. Magica bulla, di bull, immigrato non c'è più, è questa che dice la nostra fatina bionda Beccalossi. Com'è Parenzo? Io faccio questa canzoncina, Parenzo, ripetila un po' sta canzone, com'è? Amici della radio, guardate la Beccalossi su internet, occhi azzurri, capelli biondi, magica bula, bigli di body di bu, l'immigrato pu, non c'è più. Questo vabbè, adesso l'hai cantata. Avrebbe dovuto partecipare a Sanremo. Allora, no, ma è così, questi sono simpatici perché pensano di risolvere le questioni dicendo via gli immigrati, via. Allora, aspetta un attimo, voglio dire. No, questo, il giorno che dovesse succedere 10 invece la guardi e scampi. Dovesse succedere qualche cosa in Italia, tipo quanto è successo a Parigi, poi vedremo se saremo ancora qui a scherzare. È che fino a 15 giorni fa eravamo tutti Je suis Charlie, oggi sono tornati a chiamarsi Carlo, Maria e Francesco e si sono dimenticati che... Senta, lei con i barconi è più vicino di quello che pensiamo. Con i barconi lei che cosa farebbe? Perché è la domanda che viene fatta di solito. Cioè, li prenderebbe e le persone non le prenderei, punto. Non li prenderebbe. Dunque, se la gente sta affogando, che succede? Se la gente sta per morire? Senta, ascolti, ma non mi risulta che solo l'Italia sia affacciata sui mari. Chissà come mai in Spagna, in Grecia, in altri posti. Perché da noi sanno che li prendiamo, questo è il punto. Ecco, basta. Si è fatto una domanda, si è dato. No, ma io questo qua, io su questo. L'ultima volta che hanno cercato di arrivare in Spagna con un governo di sinistra hanno sparato i barconi. Dunque, non è più successo niente. Ma che dobbiamo fare noi allora? Non dico di sparare i barconi, dico di cominciare a dire che se vengono. Se cercano di venire qua, nessuno li soccorrerà. È da dire, è benissimo. Se arrivano, non dobbiamo soccorrerli? Io non li soccorrerei. Lei non li soccorrerebbe? Li farebbe tornare da soli oppure li scorterebbe fino in Libia o da dove ma vengono? Se serve aiutarli dal punto di vista umanitario e logistico affinché tornino da dove sono venuti, ci mancherebbe altro. Ma francamente usare la Marina italiana per fare da navetta per clandestini che vengono sul nostro territorio a delinquere magari... pure a fare qualche gesto criminale. Mi dispiace, ma sono d'accordo. Scusa, qualcuno, se Parenzo cerca sempre una Le Pen italiana, ma qui è Parenzo, tu che la conosci bene, è bella, bella pronta una Le Pen. C'è da tempo. Anni che fa politica, quindi è una che... Cioè, dice che è stagionata, dici, no? No, no, tutt'altro. Di una donna mai. No, appunto, appunto. Senta, Salvini... che dica delle cose... francamente aberranti, ma perché aberranti? Ma perché io in così. Questo caso io su tante cose posso non essere d'accordo. A voi ragazzi semplici piace così. Ma non ragazzi semplici, dire che uno che uno non tutti, dai. Vabbè, non è così. Allora, al nord venga che... qui a Lampedusa a vedere come stanno le cose. Faccia un appello a Alfano perché sistemi quel cazzo di centro che dovrebbe ospitare 200 persone e ne ospita 1200, dove c'è la gente che dorme fuori al freddo, non hanno i vestiti per cambiare. Ma che c'entra questo? Che hanno fatto in mare. Occupatevi anche di questo. Sto dicendo, venga con me nei centri per anziani, venga vado... nei supermercati. Ma che c'entra? È un problema italiano questo. Ma lei venga con me, allora io vengo a Lampedusa, lei venga con me all'Esselunga, alla Copa, fino all'Esse a Lunga. Quando i pensionanti fanno. Ma certo, ma non sono problemi diversi. Ma io sono il frigorifero vuoto e tre bambini affamati a tavola. Non invito gente a cena. Cosa vuol dire? Arrivati al paradosso, Parenzo. Fino a qualche anno fa sì. L'Italia poteva permettersi di essere generosa perché avevamo molte più possibilità. E oggi che abbiamo tre giovani su quattro senza un posto di lavoro e con i dati occupazionali che fanno venire la pelle d'oca. Non possiamo prendere più nessuno. Non è difficile pensare di sperperare risorse per far venire gente. Ma dicono che in Lombardia c'è posto per 2000 persone ancora, per 2000 immigrati, leggo da qualche parte, il Ministero degli Interni dice che c'è posto ancora per un sacco di gente. Il Ministero degli Interni ha usato un prefetto del Ministero che a mio avviso non sa di che cosa sta parlando e dovrebbe avere più rispetto istituzionale per la Regione Lombardia convocando il Presidente Maroni e le altre regioni per chiedere collaborazione, non imponendo dall'alto chi, come e quando ricevere sul nostro territorio. Io addirittura ho detto facciamo la disobbedienza civile e diciamo che non accogliamo più nessuno. E forse per lei non accoglierebbe più nessuno, naturalmente. Ma assolutamente no, mi spieghi perché io devo tenere profughi in alberghi a 3 stelle nella mia regione quando ho pensionati e famiglie che neanche nell'albergo a 2 stelle possono andare a fare le vacanze. Senta, ma lei, lei se fosse stato al posto del parlando di un altro argomento, del come si chiama quello della pompa di benzina, insomma il benzinaio Stacchio, avrebbe sparato? Sì, certamente che sì. Lui è stato sfortunato perché non ha voluto evidentemente ammazzare il rapinatore, ha avuto la sfortuna di sparare alle gambe e purtroppo questo è morto dissanguato. È di tutta evidenza che non voleva assolutamente quello lo deciderà la magistratura, dire, ammazzarlo. Però. Però io avrei sparato e trovo che il suo sia stato un gesto eroico. E lei ha il porto d'armi, signora Beccalossi? Purtroppo no, perché appunto perché so che sparerei. Perché ha paura di sparare, dunque perché non lo prende. Perché conosco i miei limiti e a volte sarei tentata. Quando è tentata di sparare, per esempio? Sono tentata tutte le volte che vedo un prepotente essere tale su una persona più debole di lui. E la pulizia etnica? E a volte anche politici. Ma addirittura ogni tanto ha la tentazione di sparare a qualche politico per le porcherie che fa. Ma veramente? Esattamente che sì. Cioè, dentro di sé ogni tanto, cazzo, sparerei a uno per quello che anche fa. Anche oggi in giunta mi sono arrabbiata, se fossi il Papa avrei avuto, non l'avrei fatto ovviamente, ma la sensazione probabilmente ogni tanto ce l'avrei. E i campi rom gliela stacchiamo l'elettricità oppure no? Se non pagano la luce evidentemente sì. Beh, quello la, non la pagano. La stacchiamo ai pensionati, agli operai, ai disoccupati, alle famiglie italiane con bambini, non ho capito perché invece loro devono stoccare le... Non andrebbe staccata neanche a loro. Non andrebbe staccata neanche a loro. Ma chi paga qua in questo paese? David, chi paga? Vabbè, abbiamo la Le Pen italiana, grazie, a presto. Torni più spesso, però non si faccia desiderare troppo. Giorni. La trasmissione è una brava persona, ha preso quel taglio lì e va avanti così, però non offende mai nessuno. Cruciani non offende mai nessuno. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Caro Parenzo, possiamo girarci intorno finché vogliamo, però direi che la frase del giorno è presente in un'intervista alla mitologica Milli D'Abraccio. E chi non conosce tra voi che ascoltate La Zanzara, ma direi anche gli amici di Confindustria, tutti quelli che sono in ascolto, chi non conosce, chi non ha mai visto un film con Milli D'Abraccio? Tu hai visto un film con Milli D'Abraccio, Parenzo? No, no. Non hai mai visto un film con Milli D'Abraccio? Ti assicuro. Direi che ti mancano, non dico le basi, ma direi le fondamenta di qualsiasi convivenza civile. Visto tutti i film di Woody Allen, ho visto sì, tante cose, il di cinema ho visto tanto. Il film della signora D'Abraccio, no, ma non critico chi li ha visti. Cioè, tu non hai mai visto un film con protagonista la signora Milli D'Abraccio? No, ho visto tutto Lino Banfi, da commedia all'italiana la conosco, esatto, quasi a memoria, sì, Monicelli, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Ma la chiedo anche scusa. Devi chiedere scusa, devi chiedere scusa. D'Abraccio non l'ho, non ho visto, credo, neanche un fotogramma, credo, di suoi film. Questo non credo. Io pure questo non credo, però magari tra i pochi film porno che hai visto, ti è scappata Milli D'Abraccio, non l'hai nemmeno riconosciuta la signora D'Abraccio. Io considero la signora Milli D'Abraccio, dopo Moana Pozzi, dopo Rocco e dopo Cicciolina, forse la numero 4 tra i miti del film hard, direi tra i rappresentanti fondamentali della società italiana, direi, no? Tra i pilastri della società italiana. Beh, cari amici, oggi intervista sul Fatto Quotidiano alla signora Milli D'Abraccio. Okay. Signora Milli D'Abraccio, c'è un passaggio che vorrei leggervi, ovviamente con la premessa che i bambini magari saranno un po' turbati da questa cosa, caro Parenzo, però magari no, Allora, il passaggio fondamentale è questo, ascoltate bene. Alla fine degli anni 90 a Milano si è presentato un riccone e mi ha chiesto di andare con lui, ho rifiutato. E fino a qua, no? Parenzo, che dici? Fino a qua non, nulla questio, come no, si dice? No, va bene, sì. Nulla questio, no, non è una cosa scandalosa. Ognuno è libero di andare con chi gli pare. Assolutamente. Dopo qualche giorno è tornato... Enzo, tra l'altro, io vorrei dire una cosa. La signora D'Abraccio si proclama escort, fa la escort di alto bordo. Vabbè, ma anche questo... Ma la Guardia di Finanza, per esempio, che ha rotto i coglioni a chiunque, giustamente, da un certo punto di vista, perché non va a fare una visitina pure la signora D'Abraccio? Come alla nostra amica Efe Ball. No. Beh, sì. No, così facciamo una grande battaglia a favore della signora D'Abraccio, per questo lo dico, Comunque va bene. Dopo qualche giorno è tornato con una valigetta piena di soldi. Dopo qualche giorno è tornato con una valigetta piena di soldi, questo signore. L'ha aperta, ha rivoltato il contenuto sul pavimento e mi ha detto: attenzione qui, voglio che li raccogli con la fica. Se lo fai. Voglio che li raccogli con la F. Ah, ho capito. F-I-C-A, come la sigla della Fiat con una I in mezzo, diciamo, no? F-C-A con la I al posto. Come la sigla della Fiat, diciamo. Voglio che li raccogli con la sigla della Fiat più la I, così la gente non si scandalizza. Se lo fai, sono tutti tuoi. Attenzione, un'idiozia, voleva dominarmi, il suo obiettivo era umiliarmi, così l'ho mandato a fanculo. Ti prego. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Stati Uniti in campo, pressioni sulla Grecia, serve subito un accordo sul debito, l'incertezza non va bene per l'Europa e le borse chiudono tutte in rialzo. È sempre più guerra aperta in Libia, su molti fronti, gli egiziani attaccano Derna e catturano 55 jihadisti, forze libiche circondano Sirte. Si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU, sul tavolo l'ipotesi di un'ampia coalizione che combatta il terrorismo ma eviti un conflitto totale in Libia. Gentiloni alla Camera, diplomazia unica soluzione, ma c'è poco tempo, serve un cambio di passo, la stampa inglese, possibili infiltrati sui barconi. Renzi a Torino, l'industria che vince non è quella della lagna, siamo secondi solo la Germania, ma li riprenderemo, gasatissimo dai progetti di Marchionne. Alba si è fermata per l'addio a Michele Ferrero, l'imprenditore padre dell'industria dolciaria italiana, il figlio, per lui l'aspetto sociale veniva prima del profitto. Un detenuto si suicida, sulla pagina web di un sindacato di polizia penitenziaria c'è chi commenta, uno di meno, il ministro Orlando convoca il capo del DAP. Sì, effettivamente alcuni commenti che sono presenti sulla pagina Facebook di un sindacato di polizia, poi non sappiamo chi ha fatto questi commenti, uno di meno, eccetera, eccetera, commenti sulla morte di un carcerato romeno che si è impiccato, sono tremendi, non sappiamo ovviamente chi li ha fatti. C'è una pagina di un sindacato in cui c'è un comunicato su questa vicenda e i commenti sotto, presumibilmente fatti da agenti carcerari, alcuni di questi dicono i miei colleghi, i nostri colleghi, qualcuno dice addirittura ci vorrebbero più corde col sapone, cose di questo tipo, capito? Questi sono i commenti, andassero a prendere questi che hanno fatto i commenti e casomai li mandassero via oppure li denunciassero, eccetera. Beh, ti credo, cioè, io ho sempre considerato questi social network una fogna, lo dico perché. Ma i social network una fogna, che vuol dire una fogna? Alcuni che scrivono, senza generalizzare, alcuni che scrivono sono fogna, perché ricevo commenti contro. Beh, certo, perché io. Ma non c'è differenza se lo dici in pubblico, eh? Cioè, se una cosa viene detta scritta. No, ma questa è la differenza che ho provato a spiegarti 2 milioni di volte, che quello che la notte va, viene sotto casa tua, Cruciani, in via, diremo poi l'indirizzo. Ma quale e via? Ti scrive con lo spray nero Cruciani maledetto infame. Ma che vuol quello dire? È un coraggioso, cioè quello è un ragazzo coraggioso, perché? Perché rischia, perché compra la bomboletta, viene invece sotto casa rischiando che di trovare te o la polizia, no? Invece cioè mette la propria l'infame maledetto che dal suo computer di casa. Ma ormai sono tutti rintracciabili, ti sbagli? No, sono purtroppo non è vero, quelli sono infami che si nascondono dietro nickname, ti insultano come fanno su Twitter. Ma non c'è nickname, c'è la prova. Sì, ma sono dei codardi infami, infami. In alcuni casi non hanno il coraggio di ripetere le stesse cose in pubblico, non bravissimo, c'è esatto, ma neanche di venirtelo a scrivere sotto casa. Quelli erano eroi almeno. Allora andiamo. Gerardo, provincia di Salerno, eccoci qui. Gerardo, vai. Buonasera. Vai, dimmi. Allora, veniamo subito al dunque. Allora, sì. Al contrario di quello che si pensa, si è detto da radioascoltatori che sì, sento la sera in merito all'intervento del benzinaio che ha sparato al. Sì. Allora, per me non è un errore. Lui, quello che doveva fare, doveva chiamare le forze dell'ordine. Ma voi siete veramente impazziti, cioè voi pensate che un signore che ha un'arma e la tiene con sé, dunque che ce l'ha a fare l'arma allora per difendersi, no? Allora, gli sparano addosso, gli sparano, va a vedere la situazione, gli sparano, questo secondo il suo racconto ovviamente, se ha preso il fucile e è andato lì sparando all'impazzata, ovviamente è un altro discorso, gli sparano addosso e col fucile in mano doveva pensare a chiamare la polizia, ma ragazzi, ma siete allora, impazziti o dite sul serio? Dai, è una persona che in quel momento sta commettendo un reato. Ma quello che ne sa, quello sta vedendo una rapina in corso con gente che spara da tutte le parti e spara anche lui, no? O no? Allora, io non sono deputato praticamente a farmi giustizia, ho ad applicare, diciamo. Ma lei che mestiere fa, Gerardo? Che mestiere fa? Sono laureato in biologia, sono un biologo. Un biologo, ma secondo lei, insomma, il suo ragionamento porta a dire che questo qua doveva chiamare la polizia e non può imbracciare il fucile, non doveva sparare. Ha sbagliato a sparare. Certo, perché? Vabbè, ho capito, molto chiaro. Silvano, provincia da Bergamo, ho capito tutto. Silvano, provincia di Bergamo. Sì, pronto? Dimmi, caro, dimmi. Buonasera. Allora, stavo dicendo, partiamo dal presupposto ancora del benzinaio. Ha sbagliato a sparare, giusto? Ha sbagliato a sparare perché ne ha preso solo uno. Erano 3, 4, 5, doveva sparare a tutti, non solo a uno. Poi un'altra cosa, io faccio l'autotrasportatore. Sì. E in questo momento trasporto metalli per fusione, no? Sì, sì. Ecco, ho sentito che qualcuno gli vuole pagare il funerale a questa gente qua, allora rapinatori, stupratori, tutta questa gente vanno portati nelle fonderie e messi insieme a rottame, vanno fusi, altro che fare i funerali. Cioè, non ho capito bene, Silvano, la tua ricetta qual è? Avete capito bene. No, non ho capito, ripeta in maniera più chiara. Non bisogna fare neanche il funerale, altro che paghiamo noi il funerale o il comune di Vicenza. Cioè, nemmeno il funerale, portare, no, diciamo... Via, va disperso tutto, che spendiamo i soldi per il funerale, perché io conosco e ho avuto l'onore di stringere la mano al signor Antonio Monella di Arzago d'Adda. E chi cazzo è? È quello che ha sparato a quell'albanese di 19 anni qualche anno fa che ce l'aveva in casa a rubare. Vabbè, allora? Il signor Antonio Monella si è beccato 6 anni e 1 mese nel carcere di via Gleno a Bergamo. Sì. Ecco, e la famiglia voleva 150.000 euro. Allora un ladro va in casa di un onesto cittadino, no? Quello si difende per difendere la famiglia. Sì, no? Sì. E più si trova. E dunque, secondo lei, nemmeno il funerale, prendere quei corpi e portarli in fonderia. Il commento sobrio di Parenzo è la risposta a questo ascoltatore. Parenzo, a te, prego. Questo ascoltatore andrebbe preso. Sì. Ah, scusami, primariamente identificato. Sì. Poi preso, sì. Interrogato per qualche minuto, sì. E poi sottoposto a una cura sanitaria obbligatoria, sì. Perché nel nostro paese vige una cosa che si chiama, apri le orecchie caro ascoltatore, stato di diritto. Siete proprio delle bestie. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Non vi abbandonerò mai. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Non posso dimenticare la tripletta di Semproni. La tripletta di Semproni. Gli uomini possono resistere a fare la tripletta a pochi giorni, poi vanno in ospedale con la flebo. Se vedi una bestia di quelle che si soffia come l'umidolo, hai presente l'umidolo qua a Re? La femmina che fa così. Ve l'ho detto 100 volte. La donna sessualmente è 100 volte più forte dell'uomo. L'uomo può fare lo zimbello, lo yon, se fa una tripletta. Lunedì, martedì, altra tripletta. Mercoledì, vai, ti concedo un'altra tripletta. Giovedì, stacca le flemme all'ospedale. Capite? E venerdì, venerdì a un cazzo siete, venerdì, che volete fare? E venerdì a un Non so perché, non posso resistere. Non posso resistere. Di fronte a questa cosa, capito. Non posso resistere. Ogni tanto me la sento di notte, ti giuro, di notte me la sento. Di notte, Semproni, un mito assoluto. Assoluto. Ti prego. Sì, lo so. Bisognerebbe parlare di Libia e di questa cosa. No, di... non chiedo questo. La fatina bionda. La fatina bionda. Destra estrema dov'è? Non c'è. È venuta ospite la prima mezz'ora. Con gli occhi azzurri meravigliosi, il capello biondo. Per me gli immigrati dovrebbero sparire. Ah, no, non ha detto questo. Beh, non li dovremmo prendere. I barconi non li dobbiamo soccorrere. Non li dobbiamo soccorrere. Non ne parliamo più. Mi spieghi il senso della frase? Ha ragione. Barconi. Ma non li dobbiamo soccorrere. Ha ragione. Ma venite qui, ma cosa vuol dire? No, cosa no, no, ha ragione. Io voglio incazzarmi con una signora del Partito Democratico, la responsabile donne del PD a Bologna, che si chiama Federica Mazzoni. A parte che secondo me è responsabile donne. cosa cazzo vuol dire responsabile donna? Scusami, cioè perché deve esistere la responsabile donna? Sono d'accordo con te su questo. Ma di cosa parliamo? Tu sai che io critico. No, ma la responsabile sono d'accordo con si elimini questa cosa. Ho la detto che sono d'accordo, d'accordo con te. Ma fammelo dire lo stesso, però. Ma no, non dirlo più che fai brutta pubblicità. Sono d'accordo con te. Cioè, la responsabile donna in un partito, magari, ma c'è anche in altri partiti, magari, e non solo nel PD. Responsabile donna. Cancelliamo questa roba, la responsabile. Comunque esiste una responsabile donna nel PD a Bologna, la quale si incazza con un'azienda che in un'etichetta di un prodotto, di un maglione, di un pantalone, se non ricordo bene, scrive devi lavare la felpa, una felpa era, devi lavare la felpa dalla tua mamma e il suo lavoro. Ora io dico solo una cosa, ragazzi, ma di cosa parliamo? Perché una signora responsabile donna del Partito Democratico, già questa è incredibile, si deve occupare di una minchiata del genere? È una pubblicità, le donne sono quelle che storicamente hanno lavato di più in una casa. Se un'azienda decide di scrivere una cosa di questo tipo, ma per quale minchia di motivo una signora politica si deve introdurre, deve parlare, deve discutere, deve denunciare questa cosa? Perché? Rinunci a questa cosa ed elimini anche questo inutile incarico. I politici conoscono i confini della Libia? I confini. Sentiamo Cicchitto, il Fatto Quotidiano, Cicchitto. Si ricorda con quali paesi confina la Libia? Sì, adesso non stiamo, no, guardi. Allora, sappiamo. Lei non mi sta facendo l'esame. La Libia c'ha l'Egitto, c'ha il Mali e così via, e poi è rivierasca dell'Italia. Ma il suo esame glielo rimando al mittente e la saluto. No, guardi. Guarda, l'esamino te lo fai a casa tua, è un cretino, no, guarda. No, guarda. Quella era Brunetta, però, cretino. Non mi puoi manganellare, guarda. Però il Mali, diciamo, a Cicchitto non c'è tra i confini della Libia, eh. Mi dispiace per Cicchitto, ma il Mali non c'è. Forse voleva dire la Tunisia. No, vabbè, ho capito, ha detto il Mali, oh, ragazzi. Forse però ha detto il Mali. Allora, eravamo con Silvano dalla provincia di Bergamo sulle fonderie e i Rom. Non l'ho detto i Rom, ho detto i delinquenti, assassini, stupratori. Non mi interessa di dove sono. Sì, i delinquenti, assassini, stupratori, esatto. Bisognerebbe portare i corpi, manco fare il funerale e portarli via. Vabbè, i funerali, scusi, se muore suo padre, è vero che non è un delinquente. Ma mio padre non era un delinquente. Non era un delinquente. Ha fatto che la guerra, mio padre. Ho capito, amico mio. Per questa Italia della Repubblica delle Banane. Scusi, Silvano, però i funerali, i funerali, uno potrebbe dire, non si negano a nessuno. Vabbè, ma... Allora, vorrei dire al signor Khmer Rosso lì. Parenzo, sì, Parenzo. Khmer Rosso, perché quello lì è peggio dei Khmer Rossi. Allora? Khmer Rosso, Parenzo. Allora? No, che se esiste, dice che esiste lo stato di diritto, ok? Allora non è un diritto per un padre di famiglia essere tranquillo in casa sua con la sua famiglia almeno certo. Di notte. Certo. E allora? Allora, Silvano, secondo Parenzo devi andarti a fare curare. Hai sentito quello che ha detto prima? Sì, certo. Secondo il Khmer Rosso, tutti si devono curare. Tutti quelli che non la pensano come lui. Va bene, Silvano. Giuseppe da Napoli, vai, Giuseppe. Dire semplicemente che stasera avete fatto due pesi e due misure, cioè dire quei coglioni, io li definisco così, che hanno commentato in malo modo e in veramente sì. Scemo, infame, insomma, la morte di questo rumeno in carcere, sì. Hanno espresso un pensiero stupido, cretino, volgare, inappropriato. Così come il famoso scrittore napoletano ha detto che si deve boicottare la TAV. No, quelle lui sono due cose diverse, abbi pazienza. Sì, ho capito, ma sono due cose, hanno espresso un pensiero tutte e due, non hanno fatto ma che male. Vuol dire hanno espresso un pensiero? Hanno espresso un pensiero, io sono contrario stupido, a quello che dice Henry De Luca, stupido, sono cretino, contrario, dopodiché non che bisogna andare a prendere a casa i carabinieri, io ho detto, insomma, io non ho detto sono questo cretini. E su dei cretini non si commenta, cretino no, punto e basta. Guarda, io non ho detto che i carabinieri devono andare a prendere a casa, bisogna rintracciarli, andare no, a prendere no, ho detto che Giuseppe, lei è un agente penitenziario? Io no, assolutamente. Allora, il punto fondamentale è un altro. Parenzo dice le persone si esprimono in maniera anonima su Twitter, su Facebook, eccetera. Io ma ho detto non c'è l'anonimità. Ha espresso un pensiero, quindi un pensiero stupido, ma hanno espresso un pensiero. No, un pensiero rivoltante. Un pensiero rivoltante. Se uno si impicca in carcere, adesso. Se uno si impicca in carcere, cosa significa uno di meno? Che vuol dire uno di meno? Scrivere uno di meno, cosa vuol dire? Lei li giustifica? No, non li giustifico, dico che sono dei cretini, ma non li vado a prendere a casa, gli posso dire sei un cretino. Beh, ma come, dove glielo dice? Dove glielo dice? Prima li identifica e poi gli dice lei è un cretino, farei così, li identificherei. Ma glielo dico lo stesso dove l'hanno commentato, è inutile fare una questione per degli stupidi, questi sono stupidi. Lo scrittore ha addirittura un processo per aver detto... Allora uno ha scritto, consiglio, ma non c'è, perché fa l'esempio sbagliato di Harry De Luca? L'esempio di Harry De Luca è sbagliato, consiglio di mettere a disposizione più corde e sapone, ha scritto uno, capito? Collega, scala la conta, è così. Va bene, ma questa è una cretinaggine, è un cretino questo che ha scritto questo, punto, ma che lo si deve andare a prendere a casa per sarà dirgli possibile, cretino. Sarà possibile identificare, tempo ma per queste, scusi, però questi individui cretini. Giuseppe, ecco, Giuseppe non è un semplice cretino questo qua, è anche un funzionario dello Stato, è una cosa un po' diversa, cioè se scusi un attimo, se un agente della polizia, lo sai io quanto sono, come dire, a favore del carcere, del fatto che tutti quanti devono pagare la pena senza sconti, eccetera, eccetera. Dunque, se però un agente della polizia penitenziaria, che non è uno qualsiasi, non è Parenzo o un altro, o Cruciani o un altro passante di Twitter, scrive, se è un agente della polizia penitenziaria, poi se scrive consiglio di mettere a disposizione più corde e sapone, lei ammetterà che c'è un problema possibile, certo, nel comportamento della guardia penitenziaria. Dunque, bisognerebbe identificare questo signore e poi magari fargli una strigliata, sospenderlo dal servizio. Qualcosa deve succedere. Vogliamo. Non è che lo dico per forza io. Vabbè, ciao Giuseppe, ciao. Allora, Giuliano Soria, è stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione per uso illecito di finanziamenti pubblici e maltrattamenti nel processo d'appello in primo grado. Nel processo d'appello in corso a Torino ha fatto delle dichiarazioni clamorose e anche in alcune interviste. Dice di aver pagato in nero politici, scrittori, attori e giornalisti. Lo abbiamo pizzicato in due momenti al telefono. La prima intervista è di Riccardo Poli, sentite. Sì. Pronto Giuliano Soria? Chi è? Sì, buongiorno, sono Poli, Radio 24, il Sole 24 Ore. No, ma non do interviste. Non rilascio interviste in merito al Green Sun Cavour? No. Quello che dovevo, l'intervista che dovevo rilasciare ai due giornali le ho rilasciate ieri. Non rilascio nulla. No, sa, ci sono molte repliche da parte delle persone che si sono viste coinvolte all'interno di questa scandalo, insomma, di questa questione, tra cui... Esibiscano le ricevute, chieda loro. Esibiscano le ricevute. Augas, insomma, è pronto anche a querelare anche altri, Giannini e così via, e Placido. Certo, esibiscano le ricevute dei pagamenti ricevuti. Cioè, lei dice che non hanno ricevute? No. No, cioè, proprio lo esclude categoricamente perché sono stati pagati in nero. Escludo categoricamente. Le pare che io vado a fare una cosa se non ho gli estremi? No, certo, assolutamente. È solo che mi sembrano abbastanza sicuri di quanto dicono, anche di quanto replicano. Cosa vuole che facciano? Augias che fa il moralista. Fa ridere questa cosa? Mi fa spanciare dal ridere, quella di Augias. Comunque io ho tutte le... cioè, chieda che esibiscano le ricevute dei pagamenti, se ce le hanno. Comunque lei sarebbe pronto a rispondere alle querele, su questo ci siamo. Ma le pare che io faccia queste accuse se non ho gli estremi e le prove? Comprese quelle di Chiambarino, con testimoni. Io ho i testimoni dei soldi che ho dato, quindi cosa vuole che dica Chiambarino, no? Non può che dire che non è vero. Ma quindi era una prassi consolidata questa, cioè da quanto ho capito era una cosa... Ma lei si stupisce? No, è che semplicemente non sapevo che fosse una cosa così ovvia, ecco. Cioè, forse nel vostro purtroppo era così. Forse nel vostro ambiente funziona in questo modo, ecco, non pensavo che fosse una cosa così scontata. Nell'ambiente dello spettacolo è tutto così. Se un attore che dice che è il contrario è un buffone e mente. Quindi, cioè, non si salva nessuno di quelli che hanno partecipato al premio in questi anni? No, no, non dico questo, no. I nomi che... Gli scrittori ricevevano dei soldi normali, avevano la ricevuta. Ma i nomi che sono spuntati sui giornali sono tutti quelli coinvolti o ce ne sono altri? Ce ne sono altri ancora. E chi sono questi altri? Beh, a un certo punto durante la giornata, caro Parenzo, come sai, è inutile che te lo dico a te, lo abbiamo richiamato, il signor Soria. Signor Soria, sentite. Sì. Dottor Soria? Sì. Pronto, salve, Cruciani, come sta? Bene. Beh, senta, io volevo sapere alcune cose che riguardano i politici, in particolare Chiamparino. Lei è così sicuro di avere tutte le prove? Ma io non do altre interviste. No, lo so, siccome hanno annunciato querela, casini pazzeschi, denunce, tutti negano, io non sono mai stato pagato in nero, eccetera, eccetera. Lei avrà pure delle sono prove. Sono certissimo e ho i testimoni. Su Chiamparino? Certo. E quanti soldi avrebbe dato a Chiamparino? 25.000 euro. In due occasioni, no? Da quello che ho letto. In due occasioni, sì. E i testimoni sono pronti a testimoniare questa cosa qua? Sono pronti a dirlo? Ma certo. Ah. E perché questa negano in questo modo così vigoroso, così forte? Cosa vuole che facciano? Ma secondo lei Chiamparino per una cosa del genere si dovrebbe dimettere da presidente della regione? Sì. Sì. Lui questa abitudine ce l'aveva già prima, appena è stato nominato la prima volta. Cioè, appena è stato nominato la... Questo è uno che era dei candidati alla presidenza della Repubblica. Ma scusi, candidato la prima volta dove? La primissima volta che era sindaco. Ah, quando era qualcuno sindaco, ha detto, sì. Ha preso 5.000 euro. Sì, sì. E poi qualcuno della bottega ha detto no, non gliel'ho dato a lui, gliel'ho dato a un suo segretario. Scusi, ma il politico più vorace che lei ha incontrato in tutta questa sua vicenda del premio Grinzane Cavour, chi è? Cioè il politico, quello che le ha chiesto più soldi, che chiedeva sempre più soldi, chi è? Vernetti. Bernetti? Ah, sì. Bernetti, l'ex sì. Sottosegretario e vice ministro agli esteri? Sì, Gianni Alfieri era un assessore a Torino, no? Certo. E sì. Quanti soldi ha dato a Bernetti lei? No, adesso è un'intervista però. Dottor Soria, siamo qui. Lo so, ma io interviste ne ho date solo due. Facciamone un'altra. No, non posso, perché ho promesso a tutti, anche ai miei avvocati, che la stampa mi sta inseguendo, non gli do nulla. Ma Francesco Giro portato in Messico addirittura? Non portato. In che senso? Era in Messico, sì. E là l'abbiamo gestito. Avete gestito, cioè l'avete rimborsato in sostanza? L'abbiamo gestito, pranzi, cene, viaggi. Ma in cambio queste persone, che cosa davano queste persone? Contributi al Grinzane. Cioè oliavano il sistema per portare contributi al Grinzane, questo è il punto. No, ci vedevano con simpatia, insomma. E dunque era più facile ottenere finanziamenti. Ma è ovvio. Scusi, ma a lei nel Cannes. Se lei è una bella donna, la invita a cena. Sì. Ma a lei nel Cannes è definito patetico da lei, o sbaglio? Perché patetico? Ma perché il cane è un noto idiota. Ma che vuol dire noto? Tutti. Ma idiota che vuol dire? Idiota nel senso che... Però le serviva evidentemente, se gli ha pagato un viaggio a New York. No, io servivo il can perché nessuno lo voleva, insomma. Ma ha letto un romanzo del can lei? Ma no, personalmente no. No, è perché io sì. Sono vivo. Ma è vero questa storia di New York? Cioè perché... È verissima. Cioè lei ha pagato un viaggio di 13.000 euro a Del Can con la moglie? E a Rosy, sua moglie. Ma perché gliel'ha pagato, se lei la considera un idiota? Pretesi da lui, perché c'era un convegno a New York. Ok, ma se lei considera che è un idiota, però un idiota utile, un utile idiota. No, non era nemmeno utile, eravamo noi utili a lui. Allora però gli ha pagato un viaggio a 13.000 euro, così a buffo. Perché non l'ha pagato lui dopo con l'agenzia. Quindi l'agenzia telefona a me e dice: ma cosa facciamo con questo biglietto? Io rompo con l'agenzia per... Scusi Soria, però uno potrebbe dire lei si vuole vendicare di tutte queste persone, ormai è disperato lei magari. Ma non è vero, ma io primo non sono disperato, secondo se volevo vendicarmi ne avrei parlato 6 anni fa, non adesso. E lei lo fa per liberarsi allora? No, lo faccio per un atto di giustizia, adesso che sono molto più tranquillo e equilibrato, ho detto, dico la verità. È stato condannato, può dire qualunque cosa, può dire anche che Gesù è morto dal freddo, tanto chi se ne frega, ha beccato 14 anni, può sputtanare chiunque. Cioè, può dire che anch'io, Parenzo, sono venuto a un suo cazzo di convegno, cosa che non ho fatto, però può dire qualunque cosa questo signore. No, però sta dicendo che non è disperato, giusto, Soria? Cioè, che prove ci sono, oltre al fatto di Chiamparino, dei testimoni? Che prove ha lei di questi pagamenti in nero ad Augias, ad altri scrittori o ad altri attori? Ma loro tirino fuori le ricevute delle prestazioni che hanno fatto. Cioè, dovrebbero fare cioè, la Guardia di Finanza dovrebbe fare dei controlli in banca? No, dovrebbe chiedere le ricevute delle loro prestazioni. Non le hanno. Non le hanno, eh? Placido è incazzatissimo con lei. Sia Placido. Chi se ne frega di Placido? Ma anche Giancarlo Giannini dice che manco la conosce. Lui viene invitato in un sacco di posti. È rimbambito. Lei lo conosce benissimo, Giancarlo Giannini. Sì, certo. Giannini è quello che è finita la cerimonia, è venuto subito lì a dire i soldi, datemi i soldi, datemi i soldi. Quindi mi ricordo tutto. No, ma scusa, ma lei può dire qualunque cosa. Lei può dire che conosce pure me. In verità, non, per fortuna, non ci siamo mai visti. Ma perché lei mi dice questo? Scusi. E meno male che non mi ma conosce. Isabella Ferrari, invece? Anche lei era fra gli attori che è venuta senza in nero. In nero, anche lei. Quanti soldi ha preso lei? Non me lo ricordo esattamente di quant'era quel montepremi. Ma lei non ha paura adesso di tutte queste cause? No, perché ho le prove. E poi la cosa più curiosa è quando Giuliano Soria, chiamiamolo così anche se mi dà fastidio chiamarlo Soria, mi viene meglio Soria, dice Sola, il Montepremi. Sola devi chiamarlo. Giuliano Sola. Sola, Giuliano Sola. Dai, che poi, uno, no, ma allora diciamo una cosa, che io sono incazzato, perché in realtà qui è una delle più grandi truffe ai soldi pubblici, cioè sono stati sottratti un sacco per scopi pazzeschi, un sacco, al di là del fatto che Soria adesso attacca tutti, Augias, politici, Chiamparino, perché dice che hanno preso soldi nero, al di là di questo, ma qui è stato sperperato, come al solito sperperato, ovviamente da Soria, denaro pubblico. E comunque queste persone adesso non devono giustificare i loro compensi, devono giustificare tutto. Amici miei, siamo al flop. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Ma Parenzo, tu li sentiresti i consigli del signor Franco Trentalance? Li abbiamo sentiti anche ieri, certo. No, ma tu li vuoi risentire? Cioè, li hai applicati oggi i consigli di Franco? Francamente non ho avuto tempo. Lo sai tempo. Che anch'io penso no? Penso che faccia anche male. No, non fa male. Allora, tutti i medici dicono, con tutto rispetto per questo Trentalance... Ma è un nome di battaglia, Trentalance. Questo credo che non sia un nome di battaglia, credo che sia il vero nome, Trentalance. Questa idea di trattenere la prosta, cioè di trattenere il liquido, la pipì, insomma. Sì, sì, dai, dillo chiaramente. Questo giochino qua, credo che faccia male. No, ma secondo lui al contrario, non fa assolutamente. No, cioè brucia, credo. Guarda, io mi fido di Trentalance, mi fido del professor Franco Trentalance. Facciamo un sondaggio, magari gli amici di Libero, visto che sono così bravi a fare sondaggi, potrebbero fare questo sondaggio: fare la pipì e trattenerla fa male? Libero.it, fate questo sondaggio. I consigli, fermi tutti, bambini, tappate le orecchie. I consigli di Franco Trentalance per avere prestazioni più durature. Ragazzi, se lo dice Franco, oh. Fare la minzione trattenendo e rilasciando l'urina è un esercizio importantissimo per l'erezione e per prolungare la durata della performance. Beh, però l'ha detto anche in maniera gentile, non l'ha detto in maniera brutale. Poi effettivamente in un altro passaggio l'ha detto in maniera più ruvida, però l'ha detto in maniera chiara. Cioè, secondo lui bisogna trattenere, cioè fare un po' di pipì, trattenere e rilasciare. Oh ragazzi, se volete seguire, io oggi non ci ho pensato, devo dire la verità, perché vado sempre di fretta in bagno, non ci ho pensato molto. Anche tu penso lì a Lampedusa, dove hai pisciato? Per strada a Lampedusa tu la Parenza? Guarda, tra le cose che avevo da fare la mia priorità non era quella. Ma hai pisciato per strada o no? Anche tu, io ti voglio, ti vorrei vederti in qualche immagine in cui pisci per strada a Lampedusa. Ma perché a Lampedusa? No, in generale non mi è mai capitato. No, ma a Lampedusa si può tranquillamente. Qualche anno fa, se voi sapete, in genere non piscio per strada io, primo. Cerco di trovare. Ma a Lampedusa si può anche pisciare per strada, dai, pisciano tutti per strada a Lampedusa. Vai, gli immigrati, è pieno di immigrati che pisciano per strada a Lampedusa. Ma vedi che sei proprio razzista dentro. No, cervello. Immigrati, ma anche. Ma è normale. La fatina bionda. No, ma è bellissima. Ma scusa, ma è bellissimo pisciare per strada, dall'altro, una liberazione incredibile. Farlo all'aria aperta è stupendo, è meraviglioso. Ma io dico, poveri immigrati, dove la devono fare? Sbarcano a Lampedusa e pisciano per strada. Guarda, ti auguro che qualcuno, c'è uno che fa la pipì e con il vento la pipì ti venga in faccia, ti auguro, guarda. Radio Padania! Non si fa per strada! Radio Padania! Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, la barba, senza dubbi né ripensamenti. Tagliela immediatamente. Fagli mangiare la polenta, quella taragna. Ascoltatori a Radio Padania, guarda, sentiamo. Oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Quando sono arrivato io 20 anni fa, c'erano i leghisti che a Crema, perché io abitavo anche a Crema, mi rompevano le palle che noi al sud facciamo e diciamo. Poi a beneficio con i leghisti, con i terroni, adesso cominciato con i neri. Io voglio dirti che il tuo è tutto culo, perché su quel balcone ti potevi trovare anche tu, è tutta fortuna la tua, c'è a 1000 chilometri di distanza, quindi non sputare mai in aria chi in faccia ti torna, hai capito, Santi Marino? Servi di Roma fuori. Avete sentito un napoletano intervenuto a Radio Padania. Come mai non c'era una seconda motovedetta armata senza clandestini a bordo che poteva affondare il barcone che abbiamo restituito con sopra i due scafisti e lasciarli affogare? Perché noi dobbiamo affondare i barconi come prima cosa, se no che esercito delle balle abbiamo? Sali Padania, fai Anna da Salerno, Anna, vai Anna. Ciao a tutti. Dimmi, buonasera. Ho sentito un sacco di cose incredibili questa sera. Intanto volevo intervenire sul benzinaio, che ha fatto benissimo. Su chi, scusi? Ah, il benzinaio ha fatto benissimo a sparare. La signora Anna da Salerno, con questa voce gentile, soave, dice che il benzinaio ha fatto benissimo a sparare. Ma bisogna dire una cosa, Parenzo, che questa roba del benzinaio che ha fatto benissimo a sparare è condivisa dal 99%, cioè non c'è un italiano oggi che dice, sì, abbiamo intervenuto qualcuno nei giorni scorsi, però la stragrande maggioranza degli italiani dice che questo benzinaio ha fatto bene, di questa cosa bisogna tenere conto. Vabbè, quindi? No, ma bisogna tenere conto, Anna, prosegua. Ma cosa vuol dire bisogna tenere conto? Non ho capito. Anna, prosegua, dica. Ha fatto benissimo a sparare. Io ho sentito qualcuno che addirittura difendeva la famiglia del benzinaio. Ma io la convocherei la famiglia e chiederei, ma scusate, di dimostrare i vostri redditi, come campate qui? Sì, ma nessuno lo fa, brava Anna, nessuno lo fa, vanno a rompere i coglioni al tizio della salumeria che abbiamo intervistato ieri, al salumiere di Napoli che regala un panino a un disabile e gli fanno la multa i finanzieri, vanno a rompere i coglioni, perché non sono andati a controllare i 740 se ce l'hanno ovviamente, la dichiarazione dei redditi di questa famiglia rom del rapinatore, andassero subito a controllare immediatamente. Chiamiamoli, ce l'avete, non ce l'avete, via. Altro che barconi indietro, ma io voglio conoscere la fatina bionda, io voglio stringerle la mano e dirle bravissima, come pure. C'è lei a favore della fatina bionda intervenuta all'inizio della trasmissione, la signora Beccalossi, lei da Salerno è a favore della signora Beccalossi? Non solo, ma sono completamente a favore del biologo che ha chiamato prima. Ma dove vive quel biologo? Vive in Campania o sulla Luna? Ah, quello che dice, quello che ha detto da cosa. Vabbè, Parenzo, rispondi ad Anna, dai, forza, veloce. La prego, Parenzo, risponda. A me non è che interessa del fatto di essere in che le mie posizioni sono maggioranza o minoranza, mi interessa semplicemente capire se c'è il rispetto della legge e il buon senso. Siccome capisco però che il buon senso oggi, secondo questa gente che chiama, perché tutti pensano che sia pericoloso, che vadano tutti rispediti a casa, che sono tutti criminali, che fanno tutti schifo, che il benzinaio è un eroe da santificare perché ha sparato un maledetto criminale. Tutta questa vulgata qua, siccome la vulgata non è la vulgata, la maggioranza . E quindi automaticamente hanno ragione, che ti devo dire? Io passo per il buonista cretino che si fa mettere i piedi in testa, cosa che non è. Io vorrei che ci fosse il buon senso, non la nonnina padana che telefona, questa non è una nonnina e non è padana, ma le nonnine che telefonano e dicono: allora mandateli tutti quanti via. Ma non sta dicendo questo, Anna, smettila, dai. Allora, o si capisce, la nonnina padana è il prototipo dell'idiozia, no? Cioè della cosa semplificata, idiota. Mandateli via. Cos'è che vuol dire? E quindi cosa vuol dire mandateli via? Vabbè. Praticamente cosa si fa? Praticamente che si fa? Intanto non li si fa sbarcare, si fermano i barconi e non li si cosa fa venire fa in Italia. Nonnina? Non arrivano a Lampedusa. La nonnina, anziché rompere i coglioni e telefonare, cosa fa la nonnina? Vorrebbe che il governo italiano facesse come altri governi, tipo quello australiano, che i barconi non li ricevono in Italia sul suolo italiano, li prendono e li portano su un altro territorio. Ma cosa dite? Ma cosa dici tu? È possibile farlo, solo che non lo si vuole fare perché coi clandestini ci guadagnano tutti, questo è il punto, dai. Ma a me hanno rotto le palle le semplificazioni e queste nonnine. Vabbè, che ma che c'entra Anna? Io lo vuoi dire che non sei una nonnina? Libera. Quanti anni hai, Anna? Quanti anni hai? Ma no, lei non è una nonnina. 40 anni, cioè, no, ha una bella voce, magari è pure una gran figa. Va bene, ma insomma. Altro che nonnina, scusami Anna. No, lei non è una nonnina, ha l'età tua, no, è più giovane di te. È più giovane, 50, cioè, se anche mi sa che sei pure bella, o no, Anna? Insomma, non sei bellissima. Sì, beh, rispetto a quello che dice. Sei un mezzo cesso, dici, Ma certo, con quel che dice. Vabbè, adesso non la insultare, anzi no, l'ho insultata io. Come sei, Anna? Sì, mi insulti lei, scusate, mi piace di più. Ti piace essere insultata? Ti piace essere insultata o no? Dipende. Penso un po' meno, da crociare mi potrebbe piacere, non ho detto che mi piace. Amico mio. È un'amica normale, capito? Ma perché non è normale, scusa, perché no, le donne che si fanno insultare non sono normali, secondo te? Che, c'è gente cui piace essere insultato. Cioè, ci sono... in un mondo, ma vuoi far passare per normalità? Crociare lei si stupirà, ma c'è gente a cui piace farla per strada, non farlo per strada, farla per strada. Cioè, condivido con lei, Crociare, che è davvero liberato. Ma perché lei ogni tanto fa la pipì per strada, signora Anna? Per forza. E poi gli incivili sono gli immigrati. Ma che cazzo dite? E poi gli incivili sono gli immigrati, capito? Ma Parenzo, scusi. Allora, quando ma scusi, ma lei telefona, dice che fanno pipì per strada e rompe le palle agli immigrati. Ma stiamo scherzando. Cioè, lei scorreggia anche insieme al suo compagno per completare il quadro, signora Anna. Lei scorreggia anche insieme al suo. No, questo non l'ha fatto. Però le piace. Si pulisce almeno o no? Ma certo che si pulisce. E che ne sa, il vostro mondo, io non so com'è. Tiro pure con la mucchina. Ma il vostro mondo è strano, No, guardi, scusi, il suo è strano. Intanto io posso farla per strada, ma sicuramente non me ne vado in giro a fare le rapine. Questo, vabbè, adesso non è che l'alternativa sia fare rapine. L'alternativa non è quella, cara. Cioè, avete vabbè, comunque a me quest'Anna piace, Parenzo, che ti devo dire? A me quest'Anna piace moltissimo. Per è una persona libera, liberatorio. Ma scusi, allora. Ma ha ragione lei. Dai, ha ragione lei. È liberatorio fare la pipì per strada. Ogni tanto si può fare la pipì per strada. E poi dite degli immigrati. Senza farsi vedere. È liberatorio. Certo, senza farsi, c'è sempre il carrino del camionista che te suona, vabbè. E ogni tanto farsi insultare anche dagli uomini quando no o no? Anna. Ma magari non mentre la faccio, no, in altri contesti, in altri contesti. Potrebbe piacere, va bene. Ottimo. Caro Parenzo, nei giorni scorsi mi è arrivato... Ancora quella che urina per strada? No, quella che urina per strada è andata via. No, perché poi questa qui, come altre, sono gli stessi che chiamano e dicono bisogna che gli immigrati rispettino le nostre leggi, poi fanno la pipì per strada. Cosa che a te fa sesso, cioè ti piace l'idea di questa un po' sì, lo un fa po' sì. Un migrante che passa tre giorni in mare, ha che schifo. No, dipende dove la fai. Nonnine padane, tornate a fare la polenta concia e non rompete i coglioni. Allora, ma dai. Nei giorni scorsi mi è arrivata una strana missiva, una strana lettera, perché alcuni uffici funzionano ancora con le lettere, con tanto di bollo. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Io dico, oibò, cosa sarà mai? Cosa vorrà il signor Renzi? Signor Matteo Renzi. Dipartimento per le pari opportunità. Dunque scopro, in realtà lo sapevo ma me l'ero dimenticato perché non appare mai nulla di questo dipartimento, che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri esiste un dipartimento per le pari opportunità. Già questa è una grande scoperta. Carte bollate, uffici, spazi occupati, soldi spesi da noi. Per il dipartimento per le pari opportunità. Non solo c'è un dipartimento per le pari opportunità, ma c'è anche un ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, il direttore generale. Cioè, tu ti rendi conto di questa follia? Cioè, esiste il direttore, che è sicuramente una bravissima persona, non ce l'ho con lui, il direttore generale dell'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già uno per fare questo dice, vabbè, senti, andatevene a casa, va. Cioè, non mi rompete i coglioni, eccetera. Esiste tutto questo apparato burocratico, perché siccome abbiamo i magistrati, i politici, dobbiamo avere anche il direttore generale dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Ufficio Nazionale. Non riesco nemmeno a pronunciarlo. Il quale ha scritto a noi, ha scritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e ha scritto anche a un'associazione che si chiama Carta di Roma, che evidentemente deve aver segnalato che cosa? Linguaggio utilizzato durante la puntata della Zanzara del 12 novembre 2014. Dunque già ci hanno messo non so quanti mesi a fare pervenire questa missiva. In seguito a varie, la lettera è molto lunga, però ve la riassumo. In seguito a varie segnalazioni pervenutici per mezzo del nostro portale e del numero verde, oltre al grande risalto che ha avuto nella stampa, l'ufficio ha provveduto ad aprire un'istruttoria in merito alla puntata della trasmissione radiofonica La Zanzara, eccetera, eccetera, nella quale è stata ricevuta la chiamata del signor Giorgio da Genova, che ha rilasciato la seguente affermazione: io sono per lo sterminio completo dei rom e degli zingari. Farne del mangime per i maiali è l'unica soluzione, eccetera, eccetera. Per consultare il testo completo, tu lo sai che fa questo ufficio? Sai che cosa fa questo ufficio? Cosa fa? Allega un articolo del Fatto Quotidiano online. Ma non poteva andare sul sito della Zanzara? Allega un articolo del Fatto Quotidiano con i nostri soldi, questi signori, con i nostri soldi. Poi scrive: pur sapendo che il programma propone l'approfondimento delle principali notizie con un taglio anche satirico, ha comunque motivo di ritenere che il discorso riportato con il radioascoltatore contenga espressioni atte a suscitare sentimenti di xenofobia e odio nei confronti della comunità rom. Alla luce di quanto ora esposto, si invita per il futuro a voler curare il linguaggio e a prendere distanza da messaggi che possono incitare all'odio razziale nei confronti di certe comunità, affinché si favorisca un'informazione che, lungi dal rafforzare pregiudizi e stereotipi, contribuisca a costruire una società inclusiva e aperta al dialogo interculturale. Nel ringraziare per l'attenzione che si vorrà prestare alla presente, si porgono cordiali saluti. Consigliere Marco De Giorgi, una bravissima persona, non è questo il punto. Il punto fondamentale è che per comporre queste parole e per farci arrivare questo allegato del Fatto Quotidiano si è perso tempo, si è fatto un'istruttoria inutile e si sono stampate carte e non so chi si è sentito, tutto a spese nostre per questa minchiata. Le parole del signor Giorgio sono quelle che sapete e le facciamo risentire. Giorgio da Genova. Buonasera. Vai Giorgio, dimmi. Buonasera, io sono per lo sterminio completo degli rom e degli zingari. Bene. Farti del mangime per i maiali è l'unica soluzione per... È l'unica soluzione per che cosa? Io spero che questo stia scherzando, questo pazzo. No, non sto scherzando, Parenzo. E allora lei è un matto. E lei? È un potenziale violento e un matto. Lo sterminio completo, donne, lei uomini, bambini. È pazzo. Thank you. Allora, devo consigliare però i signori del Dipartimento per le Pari Opportunità di prendere in considerazione anche quest'altra telefonata arrivata nei giorni scorsi, esattamente il 12 febbraio, così gli abbrevio anche il lavoro e gli rendo il lavoro più facile. Il 12, signor, come si chiama questo qua? Signor De Giorgi, prenda appunto carta e penna, perché sicuramente il computer lo usa non tantissimo, carta e penna, e scrive Marco da Pavia, 12 febbraio, Marco da Pavia. Sentiamo. Andiamo a Pavia, Marco. Non il mio nome, eh? Vai, Marco, vai. Io non gli ho mandati in Parlamento. Dimmi. Buonasera. Io volevo intervenire per la vicenda che ha riguardato l'omicidio dello Zingaro. Molto semplicemente, ma io ritengo che gli zingari dovrebbero estinguersi come razza, è una razza che dà problemi. Cioè, estinguersi che cosa vuol dire in concreto, caro Marco? Dovrebbero cessare la riproduzione, non so come dire. La sua idea qual è? Molto semplicemente. Quando vanno a partorire a nostre spese negli ospedali, sì. Magari per sbaglio il ginecologo alle donne asporta, non so, l'ovulo. Cioè, lei dice magari che bisogna. Aspetta, qualcosa, ma sì, insomma, che bisogna sterilizzarli. No, bisogna cosa, sterilizzarli. Sì, più o meno sì. Adesso non voglio dire proprio una cosa del genere, che è un po' forte, però insomma. Cioè dovrebbero a quel eliminare. Punto uccidere il feto, diciamo, questo uccidere, che è agghiacciante. No, non ho detto questo, causare una lesione gravissima eventualmente. Ma come causa? Ma non è una cosa, non è una... scusi se non l'abbiamo capito. Perdoni, scusi, se non l'abbiamo capito bene. Perdoni davvero, caro Marco da Pavia. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, non abbiamo, cioè non è un'uccisione del feto. No, era proprio una lesione permanente. Marco, ma tu ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Che rendi conto? È ovvio che me ne rendo conto, altrimenti non vi avrei neanche chiamato. Certo che me ne rendo conto. Allora, Fabio Udine, vai, Fabio. Poi sì, Massimiliano Pescara. Vai, Fabio, dimmi. Ascolta, basta parlare male degli zingari, mi sono rotto. Basta parlare, e ti spiego anche perché. Immagina solamente che cosa si possono fare degli zingari. Sono utili, utilissimi. Veramente, lo dico con tanta incazzatura, perché pensa solo che tipo di saponette si possono fare con gli zingari. Oppure immagina, sei giri di macchina, sei giri di camion, imbarcazioni. Con la pelle si possono fare un sacco di cose, e neanche immaginare con gli organi, si possono utilizzare anche gli organi, quindi basta parlare male degli zingari, sono utili, ne voglio di più in Italia. Parenzo? Questo qui, da che zona trasmette, da che zona chiama? È Udine, ma lei è un autotrasportatore perché è in movimento, un semplice cittadino, cioè uno che sta in macchina oppure che altro? No, sono in macchina e ascolto tutte le sere. Sì, vabbè, questo va benissimo. Sì, prima di salire in macchina e poi di telefonare, non ha fatto uso di droga o alcol? No, non ne uso, neanche bevo, si immagina. Beve solo acqua? Sì, ma comunque immagini, perché sono forti anche i metani, viene una pelle molto resistente. Però scusi Fabio, lei sta dicendo sostanzialmente che i zingari sono inutili, andrebbero sterminati per farne, che ne so, delle pellicce, lo hanno già fatto i nazisti, guarda. Esatto, è stato già fatto. L'hanno fatto con gli ebrei, poverino. Ci sono i zingari che adesso giustamente sono migliori, ci sono zingari molto belli, alti. Cioè, ci viene un sedile bellissimo con la pelle, Il saponetto verrebbe. Lei non si rende conto, Fabio, che con questa telefonata sta incitando qualcuno ad ammazzare uno zingaro, un rom? No. E lei che cosa farebbe? Che cosa farebbe dei rom? Siccome vuole arrivare al risultato, il risultato è quello, diciamo, di servirsi della loro pelle, eccetera, eccetera. Qualcosa. Siccome l'ascoltatore di prima diceva bruciamoli, è un peccato bruciarli, no? È un peccato, pazzesco. E invece devono essere utilizzati, ma come no, cosa? Parole. Ne facciamo qualcosa, invece vanno a rubare in giro, li utilizziamo, no? Almeno sono utili a qualcosa. No, non ho proprio parole. Sì, ma per utilizzarli in quel modo che dice lei, cosa bisogna fare concretamente? Beh, com'è che facevano i nazisti? Io adesso non lo so. Non è uguale, la stessa cosa, dice lei, bisogna fare. Sì, sono molto utile. Poi volevo dire una cosa. Sì, dica Parenzo. Io di origini sono siciliano e una domanda per gli altri. In Sicilia c'è un detto, quando uno vuole, diciamo, tra virgolette, offendere qualcuno, gli dice: guarda, sei peggio di un ebreo. Cioè, è una domanda questa, non è un'offesa, solo per capire perché c'è questo tipo di offesa. Perché si dice uno a un altro... Per offendere un po' gli dice: guardi, sei peggio di un ebreo. No, è una domanda, posso rispondere tranquillamente io che non sono coinvolto in questa cosa, ma le posso rispondere. Lei è un imbecille. Le cose che si dicono sono dei pregiudizi, sono basate su pregiudizi. Ogni tanto a qualcuno può scappare qualche cosa in una conversazione privata, non c'è dubbio. Il fatto che lei ripeta questa cosa qui come se fosse una verità, perché lei con questa domanda vuole in realtà dire: beh, esatto, se qualcuno dice una cosa del genere, qualche verità ci sarà, esatto, no? Per cui lei è un imbecille, ma questo già lo sapevamo dalla cosa che ha detto prima. Ma abbiamo con noi Edward Luttuak. Buonasera, come sta? Buonasera, buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Per il momento bene. Allora, però io ho appreso, caro Luttuak, che a Cosenza non la vogliono, Cosenza amministrata dal Partito Democratico, perché lei sarebbe un bersaglio dell'ISIS. Lei doveva andare in questi giorni a Cosenza a fare una conferenza, non so che cosa. No, lamentevolmente la conferenza è il 20 febbraio. Sì. Una conferenza molto interessante perché è storica. Sì. Io ho scritto sull'impero romano e bizantino ed è un progetto archeologico di importanza molto grande, ma lamentevolmente è il 20 febbraio e io devo partire domani mattina. Però scusi, qualcuno ha paura, se a Cosenza hanno paura dello Stato islamico, sì, allora io non sono dei consentini, devo essere dei debolastri venuti da terre deboli, non so cosa. I calabresi sono molto più formidabili dello Stato islamico. Sono molto più cazzuti dello Stato islamico, lei dice. Esatto, esatto, esatto. Cioè hanno altro che ISIS, cioè sono molto più, hanno una cultura molto, esatto, più battagliera, sì, dice lei. Chiamiamolo col suo nome, Stato islamico. Stato non islamico. Chiamiamolo ISIS o PISIS o CISIS, va bene? Sì, è benissimo. Il loro nome è lo Stato islamico. Sì. Rappresentano l'Islam e basta. Però scusi, Luttuak, anche per chiudere questa cosa qui, ma qualcuno ha detto c'è un cachet troppo grosso, è un bersaglio dell'ISIS, insomma tra le... Non so, chiunque può dire che vogliono, ma sono tutte, sono cretinate. Lo Stato islamico non è una minaccia in Italia, l'Italia è molto più preparata con il Ma lo dice il sindaco, la Francia, lo dice... la Danimarca, Non è mica la Francia o la Danimarca dove lasciano persone altamente sospette di continuare a passeggiare in giro e intervengono solo quando c'è il sangue per terra. Il sistema Italia, la polizia, i carabinieri, i servizi eccetera intervengono prima. Sì. No, però scusi, allora se qualcuno non la vuole a Cosenza... No, tutti mi vogliono, è che io purtroppo, ed è una cosa molto sfortunata, devo lavorare e quindi devo domani mattina... Alle 6 per cui mattina, non è vero che questo... che lei è una barzelletta, e mi fa divertire l'idea, però non è una cosa seria. Va bene, professore, senta una cosa, ma che dovremmo fare in Libia in questo momento? L'Italia... Come sai, sì, la Libia è piena di gente armata, sì, che si stanno sparacchiando a vicenda, quindi si deve capire, sì, tutti capiscono, cioè capiscono che se si fa un intervento deve essere moltissimi soldati. In funzione carabinieri più che altro, in funzione, sì, polizia, gendarmeria, un enorme numero, sì, stiamo parlando forse di 200.000, sì, non c'è nessuna possibilità che nessuna combinazione di stati europei possa si forniscono con, sì, 200.000 soldati, quindi ci sono due alternative: o di appoggiare, sì, gli egiziani, perché avere gli egiziani che appoggino quello meno cattivo, meno selvaggio, quello di Tobruk, sì, che si dice laico, e lentamente cercare di conquistare. Ma l'Italia che può fare? La situazione su 15 anni. Sì, ma l'Italia. Se vuole fare qualcosa rapidamente, bisogna pensare a fare un grande esercito europeo, sbarcare e disarmare tutti uno per uno. Ma l'Italia prima ha detto attraverso il ministro degli esteri che bisognava intervenire, poi Renzi ha detto no, bisogna andarci piano. Mi sembra che balbettiamo un ma po'. Ma guarda, no, non è balbettare. Il governo Renzi sarebbe molto strano se Renzi, che ha un problema a casa sua, si metterebbe a fare avventure in Libia quando non c'è nessuna base concreta militare per agire, se non hai la disponibilità fatta dai vari paesi europei di mettere queste forze. C'è la Mogherini che adesso è il comanda la politica estera. Mogherini comanda la politica estera dell'Unione Europea. La Mogherini deve dare ordini ai vari paesi, la Francia, l'Inghilterra. Ma è una cosa da ridere, non da ordine, ma non dà ordine a nessuno. Scusa, bene, allora forse dovrebbe dare dimissioni e trovarsi un impiego vero, ma se voi avete creato la posizione di capo della politica estera. Ma non esiste questa posizione. Se non esiste, allora vuol dire che anche questo non è fattibile. Quello che è sicuro è che sarebbe inutile bombardare, inutile fare visite, fare il rise di comando, andare qui e là, perché non aiuta niente. In Kosovo ci sono avute decine di migliaia di soldati per poter stabilizzare la situazione, e in Libia ancora di più. Tu credi, intanto Lutwak, il telefono è caduto, non si trova, sai che ti dico, cioè io voglio bene a Lutwak, lo trovo eccezionale, ma lo sostituisco con te, lo voglio nel futuro sostituire con te, tu fai benissimo Lutwak, imiti benissimo Lutwak. Noi pensa che Cruciani è diventata colonna di ISIS. Ma che c'entro io con l'ora di ISIS? In beh, vedi, è la stessa cosa. Allora, se dobbiamo fare così, con collegamenti prima concordati, poi non si trova. È molto semplice. America dice prendi un F-14, non F-24, quello prende il Sole 24 Ore, l'F-24. No, che c'entra F-24 e il Sole 24 Ore? F-24 è un modulistica che usa burocrazia in Italia per dichiarazione dei redditi. Lei prende F-16. Sì. Con molte bombe. Molte. No, ma ha detto che non bisogna bombardare. Ha cambiato idea. Scrive dice sopra bombe. Good luck, Califo. Good luck, come si faceva con Hitler nazisti. Good luck, Califo. Beh, Califo. Questa potrebbe essere una buona idea. Califo. Bombarda molto prima. Poi se capita di bombardare pure i sindacati in Italia è uguale. Se resta qualche bomb. Quello già fatto, Camussi. Molto pericolo per l'Italia, molto. Allora, io non voglio però abbandonare, Parenzo, il tema della petomania, il tema della flatulenza tra le coppie. Da una guerra, da una bomba. No, non voglio assolutamente dimenticare, e lo farei introdurre da un mitologico film. Allora, le scurette sono di tre tipi. Dunque, la prima è quella silenziosa, è la più terribile. Se uno gli sta vicino può pure morire. E si chiama Alfonso. La seconda è quella squacque. E quella è la più pericolosa però. Perché non si sa mai se è una scureggia o te sei cagato sotto. E si chiama Pasquale. No. La terza invece è quella che ti dà più soddisfazione. È quella che tanto per capisse fai quando hai mangiato pasta e fagioli. E quella si chiama Roberto Bracco. Basta! Non credo, sono finiti! Anzi no! Questa si chiama scureggia d'artista! E mica la sanno fa tutti, Mettere sì! Ah papà, gli ho dato una lezione! Allora, Andrea da Roma ci parlava invece l'altro giorno del forno olandese. Il forno olandese è una tecnica, in poche parole tu la molli sotto le scorregge, la lasci covare qualche secondo, dopodiché le alzi ed esce quello sauvage che... Esce lo sauvage! Lo sauvage, molti sono d'accordo, tra coppie si può anche scorreggiare insieme, non succede nulla, per me si perde qualsiasi tipo di tensione se si arriva a questo livello, Si perde qualsiasi tipo di tensione. Massimiliano Pescara. Massimiliano. Pronto? Sì. Sì. Dimmi. Con tutto rispetto, Crucia, avessi l'esordio, è due ore che sto al telefono. Sì, da che sera, hai ragione. Massimiliano, hai ragione, dimmi. Io volevo parlare del vignettista. Sì, quello sì. Che adesso gli vogliono fare la pelle, no? Ma io voglio dire una cosa. Lei, Cruciani, può fare quello che vuole. Sì. Il problema è solo che se poi il signor Calippo le vuole rompere il culo, che questo aprirei anche una parentesi, perché magari forse le piace pure, no? No, non mi piace, non mi piace. Chiusa parentesi. La scorta dopo chi la paga? La pago io. No, guardi, questo non avverrà. Non avverrà, e comunque su questa cosa non dirò mai nulla. Non dirò mai nulla. Se qualcuno, se dovesse succedere una cosa di questo tipo, che vuole da me, Massimiliano? Che è colpa mia? Ma no, io sono ateo, però se sento bestemmiare mi dà fastidio. Ma che c'entra la bestemmia? Questa volta sono d'accordo con Pastrocchio. È d'accordo con Parenzo, vabbè. Il radical chic lì che difende i rom e chiunque è là con la pancia piena. Sì, questa volta non difendo i rom, non difendo nessun rom in quanto rom, non difendo i rom. Vabbè, Massimiliano, comunque il problema fondamentale è che, ripeto, per l'ennesima volta, va bene, per l'ennesima volta, io dico che in Occidente, per fortuna è ancora possibile, senza essere accusati di blasfemia, ma purtroppo finendo protetti dalla polizia in luoghi segreti, è possibile raffigurare anche Maometto, anche il profeta, in questo caso, come ha fatto quello danese, come un cane. È successa una cosa particolare in questi giorni, caro Parenzo, cioè una serie di persone cosiddette oggettine, cioè quelle che hanno frequentato case di Berlusconi, sono state perquisite, hanno sequestrato telefonini, in alcuni casi dei soldi, perché sono accusate di corruzione in atti giudiziari, di falsa testimonianza, per aver detto, secondo l'accusa, del falso sulla vicenda di Berlusconi e per aver preso anche dei soldi. Tra queste anche una nostra amica, Francesca Cipriani. Sentite quello che è successo, è incredibile. Pronto? Francesca? Chi parla? Sono Giuseppe Cruciani, ciao. Ah, un attimino, sono la mamma, un attimo. Ah, salve, salve. Sì, pronto, Giuseppe. Ciao Francesca, come stai? Male, non sto bene, sono uscita dall'ospedale ieri sera. Ma che è successo? Spiegami, mi ha detto Giampaolo che ti sei sentita male. Mi stavano buttando giù la porta dal fabbro. Cioè, i poliziotti ti hanno buttato giù la porta? Sì, la stavano buttando giù col fabbro. Ah, la stavano buttando giù quando... Dopodiché ho aperto, pensavo, non so cosa volessero. Ma perché sei andata in ospedale? Perché hai avuto delle palpitazioni? No, che aspetta, io no, al momento no, però mi hanno anche trattato comunque male, con freddezza, come fossi una delinquente. Mi hanno messo sotto sopra tutta la casa, prendevo la roba e buttavano poi per terra, non è che te la ripiegavano. Mi hanno sfasciato la casa, hanno preso documenti, poi mi hanno portato in banca, e lì in banca mi sono sentita male perché mi hanno preso i soldi. È che comunque erano di mia mamma, di mio padre, dei risparmi di una vita. E quanto ti hanno preso? 45.000 euro. Loro pensano che questi soldi siano il frutto della corruzione, diciamo, no? Questa è l'ipotesi. Sì, ma io gli ho detto, no, a casa avevo solo 100 euro, 150 euro. Ho detto, questi sono i soldi che io mi sono messa da parte, che mi ha aiutato mio papà perché mi devo comprare una casa. Ho detto, mia mamma, chiamate subito mio padre in America. Chiamate mia madre, cioè ve lo testimoniano immediatamente live, cioè chiedeteglielo, non sono soldi di nessun altro, cioè la casa sono in affitto, non ho una macchina, non hanno trovato un gioiello, cioè che cosa volete? Poi loro hanno detto, se collabori non ti succede niente, non ti si prende niente, però ci vuole una collaborazione. Ma collabori su che come cosa? Spiegami. Perché altre ragazze hanno collaborato e non gli hanno preso niente. Cioè, cosa dovresti dire tu, secondo loro? Dire, mi facevano domande, anche, dai, adesso tra me e te, raccontami un po' cosa facevate dopo. Io ho avuto uno stress psicologico, a un certo punto sono crollata, mi hanno portato con la barella in ospedale, mi hanno dato mi è venuta un'iperventilazione, non respiravo più perché mi hanno fatto fare anche una brutta figura nel condominio, hanno bussato alle 5 a tutto il palazzo, il vicino di casa volevano per forza entrare nella casa dei vicini alle 5 del mattino, cerchiamo la Cipriani su Facebook, certa gente ha scritto, la stanno arrestando, ecco, sono venuti a prenderla, cioè per la mia immagine, una ragazza che non beve, non fuma, di brava famiglia, sì, lo so, ieri sì. mi hanno rovinato Guarda, veramente, Giuseppe, credimi, mi hanno distrutto. No, io voglio capire una cosa, ma non ho capito. Loro, questa cosa qua è incredibile che ti chiedono di collaborare. Cioè, collaborare su cosa? Spiegamelo bene questa cosa. Cioè, loro mi hanno detto così, no? Io gli ho detto, ma perché altre ragazze sono uscite dalle liste? Non hanno, cioè, ce l'avete con me proprio in prima persona. Stamattina il primo nome che è uscito è il mio. Cioè, no, vabbè, sono usciti i nomi di tutti. Se proprio lo vuoi sapere, se collabori vieni rilasciata, non avrai più problemi. Non ma ci questo chi te l'ha detto? Il poliziotto chi te l'ha detto? Sì. Volevano farmi cedere psicologicamente, io ho detto ok, me lo devo inventare, se volete adesso mi invento tutto e così non me li prendete soldi, cioè me li devo inventare, cioè che cosa volete da me? Scusami, quei soldi lì che ti hanno preso, perché stamattina c'era scritto 7.500 dalla cassetta di sicurezza a casa? No, in banca, a casa non ho la sicura, niente, non c'è, cioè, tutto in banca, tutto in banca. Tutto in banca. E quei soldi lì sono i frutti dei tuoi risparmi, dei soldi che ti ha dato tuo padre? Certo, ma lo vogliamo dire una cosa, Francesca, diciamo che tu la casa te la paghi da sola rispetto ad altre persone che magari... Non ho mai avuto lo stipendio di 2,5, continuano a... Sì, io non ce la faccio più, sto crollando psicologicamente, a me tra un po' mi ricoverano perché tutto è un limite, non ce la faccio più. No, beh certo, no, ma diciamo anche che tu non solo ti paghi la casa da sola, ma non puoi più lavorare in certi ambienti, o no? Anche quello, cioè cornuta e mazziata, se mi stanno distruggendo cosa vogliono da me? Il sangue, mi devo togliere tutto il sangue che ho nel corpo, mi stanno portando all'esasperazione, mi hanno trattato come una criminale, cioè andavo girando con loro in banca, anche il direttore, gente che io conosco, sono una persona per bene, la mia famiglia è per bene, ho un'immagine sana, cavolo. Senti, ma te gli avvocati di Berlusconi o qualcuno non ti ha mai chiesto di rendere falsa testimonianza, perché poi questa è l'accusa, di rendere falsa testimonianza su Arcola, sei mai stata contattata da qualcuno? No, non mi ha mai chiesto niente nessuno, io pensavo fosse anche tutta finita sta pagliacciata. Io gli ho detto invece di venire a casa mia andate veramente, basta andare sotto casa mia che c'è la gente coi coltelli marocchini, ma andate a sprecare il tempo veramente dove stuprano le donne, qua a Milano una città invivibile, venite a casa mia dove cosa volete trovare? I pupazzi, il cacchiaspide, una minigonna, le mie pagliette, che cosa volete? Ribassatemi la casa, ho detto, fate quello che volete. Però psicologicamente mi hanno, ieri è stata una giornata devastante, sono crollata, a un certo punto sono crollata per terra, mi dalla barella e mi ha portato in ospedale. E che ti hanno detto in ospedale? In ospedale che ti hanno detto? E in ospedale hanno detto che ho avuto una crisi di panico, iperventilazione, cioè mi hanno dovuto attaccare l'ossigeno, non mi hanno fatto neanche andare in bagno. Ma anche i telefonini? Anche i telefonini? La carabiniera. Come cioè, mi seguiva la poliziotta, sì. Era dentro il bagno, era con la porta semi aperta, io mi devo cambiare, cioè davanti a tutti, gli ho detto guarda, sì, almeno la donna che mi guardi mentre mi spoglio, cioè facciamo volete vedermi voi, cioè facciamo veramente quello che non è mai successo a casa del presidente, vogliamo farlo davanti ai carabinieri, cioè avete proprio, mi hanno strappato la dignità ieri una giornata, io oggi sono a pezzi. Senti, ma anche i telefonini ti hanno sequestrato, il telefono insomma? Mi hanno sequestrato i telefoni. Questo 4 anni dopo, 5 anni dopo i fatti, diciamo, più o meno i fatti contestati, no? Sì, mi hanno preso i telefoni, ho detto fatemi fare due chiamate almeno. No, non chiami nessuno. Cioè, ho detto scusa. Ma tu in questa vicenda, diciamo una cosa, tu sei, io col Bunga Bunga non c'entro niente, diciamolo chiaramente. Io? Cosa c'entro? Sono andato due volte a mangiare a casa, cioè mezzanotte e mezza era a casa. Che regali hai ricevuto da Berlusconi? Mi hai detto quel giorno che sono andata, purtroppo lo devo dire, ma che mi è iniziato il calvario per me. Allontanata da Mediaset comunque, cioè allontanata da mi hanno bloccata lavorativamente perché mi hanno messo in una lista di altra gente che comunque non lavorava neanche in televisione, ci ho rimesso solo io ci ho rimesso tutto, non ho preso niente, ci ho solo rimesso, solo guai, saperlo non ci sarei mai andata. I regali da Berlusconi che ha avuto, quali sono stati? Il braccialettino, quando ho vinto la Pupa e Secchione, lui mi ha detto mi fai ridere, sei simpatica, spero che continui in televisione. E dopo quelle sere? No, lui poi mi aveva fatto un bonifico di 10.000 euro, che io ho stato anche detto in tribunale, perché aveva visto che ero bloccata, non mi chiamavano più, io ero sempre... Cioè non ha niente a che fare con la testimonianza, non ha niente a che fare con la testimonianza nel processo Rubi, no? Questi 10.000 euro. No, me erano stati dati prima, insomma, me l'aveva dati prima. Francesca, ti abbraccio, un bacio, ciao. Ciao. Beh, caro Parenzo, cosa aggiungere? Insomma, cosa aggiungere? No, cosa questo niente. Invece ho un messaggio finale che mi hanno chiesto di fare. Dunque, mi ha scritto una persona che tu conosci, una giornalista, si chiama Sara Giudice. Sì. Molto brava, carina, eccetera. La quale mi dice, ho un problema, mi scrive Sara Giudice. Sì. Gli uomini, non esistono più gli uomini di una volta perché nessuno ci prova. Ha detto, fai un appello alla radio. Sì. Io questo sto facendo perché immagino che il tema a te piaccia. Ma insomma, tu. dipende se, dipende come viene provateci trattato. Provateci con Sara Giudice, questo è il tema. Ma scusa, io non me la ricordo questa signorina Sara Giudice. Non è che devi, però vedi aspetta, non mi ricordo, Sara Giudice, cioè, Sara Giudice, chi è Sara Giudice? Tra essere di aiuto a una persona e immediatamente tu porti il problema se ti piace, è un altro. No, ma tema, non mi ricordo com'era questa signora Sara Giudice. Ma che differenza, è molto carina, ma che differenza fa? Ma figuriamoci se nessuno ci prova più, dai, ma che ma sono queste stupidaggini? Ma ha scritto questo dramma, dice guarda, è ma pazzesco. Quale dramma, dai, quale detto, dramma? Guarda, è incredibile che gli uomini poi si fermano sempre qualche minuto prima, eh? Ma non è vero, Sara Giudice, me la ricordo perfettamente, sì, una bella ragazza, sì, però insomma dai, ma non è vero, non ci posso credere che nessuno ci prova con lei. Comunque faremo un appello, indagheremo e provvederemo. Vai. Maurizio d'Agrigento per chiudere, vai Maurizio, vai. Sì, buonasera, volevo fare una domanda a Parenzo, che ne pensa di Cruciani quando dice che a Lampedusa pisciano per strada? No, gli immigrati, ho visto delle foto, no, delle immagini di gente dopo. No, ma non occorre, era quello, di pazienza, era quello che voleva Lampedusani, di cui nessuno parla mai. Ma io sono parlare. Ma io sono a favore degli Lampedusani, parlare. Ma sta scherzando? Lei parlare, vabbè, deve avere un po' di pazienza per i lampedusani, di cui nessuno parla mai, perché l'unica cosa che nel mondo dell'informazione sanno dire è Lampedusa. Vabbè, è allora che succede? Non ho capito. Io ho detto che ci sono i vari del Mediterraneo. Guardi, che pisciare per strada, non in mezzo alle case, ma nei campi, volevo intendere in quel senso, è una cosa ogni tanto liberatoria, non dove c'è ho la capito. Gente. Lei si vuole giustificare a cadere col paracadute in terra, in ho piedi. Detto che ho visto un sacco di immagini di immigrati che pisciavano a cielo aperto a Lampedusa, punto e basta. Perché in mezzo, vorrei sapere, da Parenzo che ne pensa? È troppo tardi, domani dirà tutto. Maurizio, lei di Lampedusa? Cruciani. Di dov'è lei? Di Lampedusa? Di Agrigento. Che fa capoluogo per Lampedusa. Sì, lo so. Buona a domani! Qui. Ciao ragazzi, a domani 18:30, ciao. Sì, mi insulti lei, Cruciani, mi piace di più. Da Parenzo un po' meno, da Cruciani mi potrebbe piacere, non detto che mi piace, mi potrebbe piacere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Radio 24. La passione si sente.